lo sento dentro me. Una vecchia canzone che mi fa pensare a lei, a quella bambina di tanti anni fa, che si è fatta donna, chi lo sa. Sono passati gli anni anche con lei, chissà se i suoi pensieri sono sempre come i miei. La vorrei vedere, ma non so dove cercare. Fino in capo al mondo, io l'andrei a trovare. Era una bella bambina, giocava sempre con me. Io la guardavo, lei mi piaceva, ed il mio amore cresceva. Io stavo sempre con lei, perché anch'io le piacevo. Mi diede un giorno il primo bacio, fu anche l'ultimo, andò via. Il primo bacio fu anche l'ultimo, andò via.